Libri ribelli. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che uso e ha ridotto già vecchi. Libri ribelli. Gli invisibili di Nanni Balestrini, parte quattordicesima. Nella sede ci venivano anche moltissime ragazze, donne, giovani e meno giovani, studentesse, operaie, casalinghe, che erano venute alle manifestazioni, che si sono conosciute alle occupazioni e nella sede. Si sono prese una stanza, per loro, e hanno messo sulla porta un cartello, stanza delle donne, e guai a chi entra, senza il loro permesso, soprattutto quando fanno le loro riunioni. E poi, fuori, hanno fatto circolare materiale di controinformazione sulla sessualità, sulla salute, sulla riappropriazione del corpo, sul salario domestico. Fanno un sacco di cose, chiedono in comune di creare un consultorio autogestito, martellano strade e piazze con la campagna per l'aborto libero e gratuito. E una sera fanno irruzione in un cinema mentre si proietta un film pornografico e con le Polaroid fotografano coi flash gli spettatori, poi salgono nella cabina di proiezione e sequestrano le pizze del film. Un'altra sera aspettano in gruppo per la strada un mezzo malavitoso coinvolto in una faccenda successa da poco, un tentativo di stupro, e gli saltano addosso in una ventina, coi bastoni, lo prendono a calci e a legnate. Un gruppo di suoi amici escono da un bar lì vicino e seguono la scena sghignazzando. Corriamo lì anche noi, maschi, perché sapendo della cosa ci eravamo appostati non troppo lontano, temendo una reazione, ma le donne agitano i bastoni incazzate contro i malavitosi e contro di noi, e ci dicono di andare via, che non hanno bisogno di farsi difendere da noi, e il giorno dopo rivendicano l'iniziativa con un tazzebao che attaccano sui muri dove c'è scritto «Riprendiamoci il diritto di vivere la notte». Le donne in sede parlano sempre più tra loro, e se parlano degli uomini si capisce che non ne parlano come noi parliamo di loro, in fondo da maschi. Le donne, anche lì in sede, sono sempre considerate delle donne, cioè qualcosa di diverso, e anche sulle donne che vengono lì in sede si fanno calcoli, progetti, pettegolezzi, che sono i soliti, che fanno tutti gli uomini, e col passare del tempo le donne accentuano i loro momenti separati, di riunioni, di conversazioni separate, e se qualcuno di noi si avvicina, mentre loro stanno parlando, lo cacciano dopo un po'. Noi ci incazziamo perché non capiamo che cosa vuole dire, cominciamo a prenderle in giro, e loro diventano aggressive. Si chiudono tra di loro, si muovono in gruppo, vanno via in macchina da sole, confabulano e ci guardano male. Ma che cazzo è successo? Una sera non si fanno vedere del tutto, e per tutta la sera noi ne parliamo, facciamo ipotesi, pettegolezzi, malignità. Poi si incarica Cotogno di indagare su Valeriana, anche se non gli va troppo perché conosce meglio di noi Valeriana, e infatti Valeriana lo tratta subito male. Appena lui prova a farle qualche domanda, lo caccia, gli dice di farsi i cazzi suoi e di smettere di fare la spia per tutti gli altri stronzi che poi saremmo noi. Anche Lauro e Lupino ci provano con Mora e Verbena. Stesso risultato, e io con China, e finiamo per litigare. Panico generale. Passa qualche giorno e ne vediamo in sede un gruppetto che appendono su una parete un manifesto che indice una riunione di chiarimento per la sera dopo. Lo appendono con le puntine e lo scotch, parlando tra di loro come se noi non ci fossimo. Clima di guerra. C'è chi propone di disertare la riunione, ricambiando l'atteggiamento che loro hanno adottato negli ultimi giorni. Quelli accoppiati sono più perplessi, cauti e timorosi, ma gli altri sono più accesi, tanto che non hanno niente da perdere. Cotogno in particolare è ammutolito. Nocciola sbadiglia, indifferente, gli esce solo un cose da donne, ogni tanto impazziscono. che ci volete fare? Ma la riunione si presenta tesa. Quando arrivo, loro sono già lì, tutte schierate, minacciose, sedute una di fianco all'altra. Nessuno di noi parla, a voce alta. Nell'attesa, beh, era il caso di fare le cose in questo modo, dice Celso, rompendo il silenzio e cercando di essere il più naturale possibile. Sì, era il caso, dice subito Menta, perché ci avete rotto le palle con i vostri comportamenti da stronzi. Comportamenti stronzi. Ci guardiamo tutti con aria sorpresa. Gli sguardi si incrociano. È Menta che continua. Ci trattate come pezze da piedi. Fate pure gli ipocriti, i sorpresi, ma da oggi è finita. Se non cambia, piuttosto ce ne andiamo via. E andatevi allora, grida Ortica, spazientito. Chi vi trattiene? Sì, dice sempre Menta, ma prima vogliamo chiarire quanto siete stronzi, dei pezzi di merda, nella media di tutti gli altri uomini, anche se vi date aria di rivoluzionari e fate le avanguardie del proletariato, ma nei rapporti con noi siete delle retroguardie, a livello di mio padre e di mio nonno. Lupino è sinceramente sorpreso. Ma cosa sta succedendo? Cosa è successo? Cos'è questa storia? È di fare le cose, di discutere. Sparite per una settimana e vi rifate vive con un manifesto di unione, va bene, e poi venite qui a dire che siamo degli stronzi, tutti quanti, veramente, non capisco. Valeriana comincia a parlare e comincia guardando fisso Cotogno. Ci siamo incontrate separatamente, noi donne, da sole, abbiamo fatto delle discussioni, tra noi è cominciato così, spontaneamente, poi la cosa è diventata più seria, è diventato un bisogno di tirare fuori tutto quello che avevamo dentro. Come abbiamo vissuto i rapporti con voi, qui, nel collettivo, fare i paragoni con i rapporti che avevamo avuto prima. Bene, abbiamo scoperto che non c'è nessuna differenza. Essere compagni dovrebbe voler dire essere diversi dalla normalità, essere migliori, più avanti, sul piano culturale e soprattutto umano. Ma voi non siete un millimetro più avanti dagli altri uomini nel rapporto che avete con le donne. Noi, nelle nostre riunioni, siamo riusciti a tirare fuori tutto. È stato difficile, bello a momenti, ma anche brutto. Ci siamo raccontate cose particolari, intime, private, come si usa dire le paure, i sensi di colpa, i complessi di inferiorità, tutto quello che proviamo nei rapporti con voi, con ognuno di voi, poi in maniera particolare con gli uomini con cui stiamo. È interrotta da Lauri. Deve essere troppo per lui. Sì, sì, vi confessate tra di voi come si faceva col prete. Ma Mora non lo lascia continuare. Ma come fai a essere così rozzo? Sei rozzo, come quando mi metti le mani addosso, come quando mi scopi. Non ti sei mai accorto di quanto sei rozzo? Lauro resta di ghiaccio, si sente tutti gli occhi addosso, ma Mora non ha finito. Tu, avanguardia degli operai che fai il ganso sindacale, perché lo so che preferisci fare i tuoi interventi da saputello nelle fabbriche dove ci sono le operaie, così magari te ne scopi anche qualcuna, dopo l'assemblea, tu e il tuo socio Ortica, perché invece di parlare solo delle 35 ore pagate 40, non ci parlate delle storie che succedono in fabbrica, le palpate di culo, le scopate nei cessi. Solo che una volta erano i capi che andavano a caccia nei reparti, mentre adesso sono le avanguardie operaie, come voi. Lauro è terreo, riesce appena a balbettare. Cos'è? Hai scoperto la liberazione femminista, mettendo in piazza che ti scopo male? Ma allora perché non vai a farti scopare da qualche altro, visto che è la sola cosa che hai nel cervello? Il braccio di Mora scatta, come una molla, un'arancia mezzo sbucciata che aveva in mano parte in direzione della faccia di Lauro, ma è la mira sbagliata, e l'arancia c'entra in pieno Aglio, che gli sta dietro, resta un attimo immobile nel silenzio generale, tutti si aspettano che si incazzi, ma lui si toglie solo di tasca un fazzoletto, si pulisce velocissimo la faccia, due colpetti col dito per mettere a posto i baffetti, poi si alza e va in un'altra stanza. Adesso comincia a parlare verbena. Comincia un po' tesa, Volevo dire che non è che i rapporti tra uomini e donne in fabbrica siano diversi da quelli che ci sono nel nostro collettivo. È la stessa merda, sono gli stessi ruoli. E tu, nocciola, è meglio che smetti di ridere in quel modo ironico, perché è proprio meglio, visto che per scopare vai a puttane. E poi, quando vieni qua, fai quello che non ci bada a queste cose. Io la interrompo. Mi spiace per nocciola, dico. Credo che non sia giusto offenderlo e mi sembra esagerato attaccare così personalmente la gente. China deve avercela con me, perché mi attacca subito. Anche tu è meglio che stai zitto. Tu sei quello che pensa sempre altro. La causa della rivoluzione è davanti a tutto e il sesso viene dopo. Magari di nascosto, sono convinto che tu ti scopriresti indifferentemente a ognuna di noi. Pensando altro, alla ristrutturazione, alla crisi, al decentramento produttivo. Tanto non è importante, noi siamo un gradino più in basso, serviamo a quelle cose lì, come serviamo a fare andare il ciclostile e a distribuire i volantini. Ecco, è il mio turno, penso io. Che noia, non fanno che ripetere tutte la stessa cosa. Mi alzo e esco dalla stanza, non faccio neanche finta di essere offeso, semplicemente me la batto. Passano 5 minuti e arriva anche Cotogno, che non ha assolutamente aperto bocca e resta in piedi davanti a me e a Aglio, che siamo seduti silenziosi su due sedie. Arriva Ortica con Nocciola. Ortica è esasperato, secondo me bisogna dargli due sberloni a testa. E Nocciola commenta: magari sono diventate lesbiche. Ma Cotogno scuote la testa. Io ho pensato che pensava a Valeriana e che aveva paura di come poteva andare a finire il suo rapporto, ma poi mi sono reso conto, tutti ci siamo resi conto, che non si trattava solo di piccole storie personali, si trattava di una storia molto più grande, si trattava, come l'abbiamo visto bene dopo, di un trauma, di un grande trauma, di una grande rottura. Forse più grande di tutte quelle che stavamo facendo e che poi ci ha cambiato tutti. A sinistra una guardia sta dentro il gampiotto di vetri antiproiettile e sopra ci sono le telecamere puntate sugli spicchi in cui il cortile è diviso da robuste cancellate, spicchi piccolissimi, grandi non più delle celle. Sopra lo spicchio c'è una pesante grata di ferro, in fondo, sotto una piccola tettoia di cemento, un rubinetto con un lavandino e un cesso alla turca, sporco, meglio comunque del bugliolo puzzolente. Adesso posso finalmente cagare. Anche se non in pace, perché a pochi metri le guardie passeggiano oltre il cancello, coi loro manganelli in mano, e c'è quello nel gabbiotto e le telecamere puntate poi dal braccio del carcere, che riesco a vedere da lì. Mi arriva qualche voce e capisco che lì devono stare insieme nelle celle, non soli come me. Non ho mai vissuto la solitudine, o almeno non ho mai avuto il senso della solitudine. E non mi immaginavo che il fatto che ti obbligassero a stare solo, a non vedere gli altri, poteva essere una cosa dura, brutta e deprimente. Ti mettono lì, apposta, per farci prendere paura, per farti soffrire una solitudine forzata che tu non ti sei scelto, che giustificano con la storia che così non inquini le indagini e puoi riflettere, puoi pensare. È un'ipocrisia di merda. Ti mettono lì per farti prendere paura, per intimidirti, per angosciarti, per farti soffrire, per farti assaggiare la loro forza di farti stare male, senza che puoi farci niente, puoi solo subire. E se accenni a ribellarti, ci sono le guardie là fuori, coi loro manganelli che fanno girare tra le mani per farti capire cosa ti aspetti se rompi i coglioni. Niente carta igienica. E allora straccio il fazzoletto e mi pulisco con quello. Cammino avanti e indietro, al posto di 4 passi e mezzo, qui ce ne sono quasi 7. Ma almeno non c'è la puzza della cella. La guardia col manganello si avvicina al cancello e picchietta con la chiave, sulle sbarre, per segnalare che il tempo è passato, che è ora di rientrare. Tre quarti d'ora non sono lunghi e lì mi sono sembrati ancora più corti. Mi hanno fatto fare l'ora d'aria presto, prima degli altri, per farmela fare completamente solo. Anche gli altri li chiudono, ognuno in uno spicchio da solo, ma gli fanno fare l'aria tutti insieme, in due o tre turni. Poco dopo che sono rientrato in cella, il lavorante mi porta il caffè latte annacquato. Comincio un altro giorno uguale al primo, segnato dalle stesse cose, la conta delle guardie e il lavorante che ti porta da mangiare e la guardia che passa per la spesa del giorno dopo. Dopo pranzo, improvvisamente ho sentito una voce che mi chiamava dalla finestra di fianco. Era un ragazzo che stava di fianco a me e che poi non l'ho nemmeno mai visto in faccia. Sentivo solo la sua voce, solo che in un primo momento, quando mi faceva delle domande chiedendomi perché ero finito in carcere, io ero timoroso, stavo sulle mie, perché non mi fidavo, pensavo che poteva essere uno che mi avevano messo lì apposta per farmi chiacchierare. Il dubbio poi mi è passato, perché mi è sembrato uno del tutto spontaneo. Mi ha dato subito una serie di informazioni, mi ha detto che ha capito che era la prima volta che finivo in carcere e per questo ha capito che era importante darmi delle informazioni, spiegarmi come funzionavano lì le cose, perché più hai informazioni, più ti senti sicuro. Mi ha detto di non preoccuparmi, mi diceva, il carcere non è così. Questo non è il carcere normale, perché sopra si può fare la pasta asciutta e si può cucinare quello che si vuole. Si hanno tutti i libri che si vogliono, si sta in cella con gli altri, insomma, mi ha spiegato cosa c'era sopra e poi mi ha dato anche dei consigli giuridici. Mi ha detto che dopo l'interrogatorio del giudice istruttore avrei potuto fare colloqui con l'avvocato e anche con i familiari. Mi ha detto che se non ero sposato e volevo fare il colloquio con la mia compagna, avrei potuto fare il certificato di convivenza. E come si faceva a farlo, e tutte queste cose, insomma, nessuna guardia è intervenuta per farci stare zitti, per non farci parlare, e questo mi ha stupito abbastanza. Poi, qualche giorno dopo, è riuscito anche a passarmi un libro tramite il lavorante che portava da mangiare. Mi ricordo che era un romanzo tipo serie nera, sesso e pistole. Però questo libro era tutto scritto in francese e io non sapevo il francese. E lui si è stupito che non sapevo il francese. Mi ha detto: Ma come, voi politici siete tutti professori e tu non sai il francese? Allora sai l'inglese? No, gli ho detto, non so neanche l'inglese. È stato zitto un momento. Era molto meravigliato che non sapevo le lingue. Poi, quella sera, per la prima volta succede una storia che poi vedrò ripetersi decine di volte dentro la galera. Sento vociare con insistenza dentro una cella. Erano forse le 6 o le 7. Uno alza la voce, dice frasi che non riesco bene a capire. Sento però che chiama le guardie. Continua a chiamare guardia, ma evidentemente la guardia non arriva perché questo continua a chiamare con un'insistenza che innervosisce. È impossibile che la guardia non senta, perché io sento i suoi passi che vanno su e giù. La voce si alza sempre di più e diventa un grido, seguito da insulti. Poi questo dentro la cella comincia a picchiare con i piedi, probabilmente contro la porta, perché fa un grande rumore contro la blindata che rimbomba nel corridoio. Questo urla, picchia, bestemmia e chiama forse sta male. Chiama la guardia forse perché sta male. Sono impressionato e incerto se devo fare qualcosa. Non sento altro rumore che quello che fa questo e sento che tutti gli altri devono stare zitti perché non sento altre voci, altri rumori dalle altre celle. Sono indeciso, istintivamente penso che dovrei mettermi anch'io a picchiare. Perché se quello chiama con tanta insistenza ci sarà bene una ragione, ma sono sorpreso che nessun altro lo fa. Mentre sono lì indeciso se cominciare anch'io a picchiare sulla blindata, sento uno scalpiccio veloce nel corridoio di passi che corrono veloce, molti passi come un gruppo di persone. Corre lungo il corridoio. È facile immaginarseli, perché il corridoio è vuoto e tutti i rumori rimbombano amplificati. Poi lo scalpiccio si ferma qualche cella dopo, la mia. e sento aprire la porta. Le urla di questo aumentano, ma adesso sono urla diverse, sono come urla di paura, ma continuo a non capire. Cosa dice? Poi sento dei rumori confusi, delle urla fortissime di dolore e di colpo capisco che lo stanno picchiando. Adesso, insieme alla voce che urla sempre più forte, sento altre voci e colpi sordi contro i muri, come se picchiassero contro i muri. Lo stanno picchiando, non c'è dubbio. La cosa dura tanto. E almeno a me pare che duri tanto, perché tutti quei rumori che sento mi fanno pensare che continuano ancora a picchiarlo, che non smettono più di picchiarlo e che sono in tanti a picchiarlo. Immagino lì un gruppo di guardie a picchiare uno dentro quel buco, a picchiarsi tra di loro per picchiarlo dentro quel poco spazio che c'è. Poi i rumori e i colpi finiscono di colpo, senza parlare. Alta voce, due o tre voci che parlano tra loro insieme e un lamento continuo. Poi sbattere il cancello e la porta con un colpo fortissimo che rimbomba nel corridoio. Poi più niente. Per qualche istante, poi dei rumori metallici. Sono gli spioncini che vengono aperti per qualche secondo e poi sbattuti. Stanno facendo il giro delle celle e aprono gli spioncini. Sento quello prima del mio, poi si apre anche il mio. Io sono davanti al cancello, davanti allo spioncino. Sono rimasto lì immobile dal primo momento, da quando ero indeciso se picchiare anch'io sulla blindata o no. Sono rimasto lì immobile a aspettare. Lo spioncino si abbassa. Una faccia giovane e scura, con gli occhi sbarrati, stravolti, che in un primo momento mi appare quella del capoposto. Ma non è il capoposto, è un altro, anche lui con la pelle scura e con gli occhi neri, ma più giovane. La faccia tutta sudata guarda dentro per un attimo, sconvolta, eccitata dal pestaggio. Mi guarda dritto negli occhi, per un secondo con gli occhi stravolti, poi sbatte subito lo spioncino. Mi sale un odio con il sangue nella testa. Mi sale la sensazione, una sensazione che non avevo mai provato, una sensazione di odio, un desiderio violentissimo di uccidere e di volerlo uccidere, subito, immediatamente, di una cosa che non sapevo, ma che era un desiderio violentissimo di volere schiacciare, di volerla pestare quella faccia, di ammazzare. Mi sentivo male, c'è stato poi subito anche lo sconforto, come un sentirsi stanchi, come una grande stanchezza deprimente che non mi faceva più stare in piedi, che mi faceva le gambe molli. Mi sono sdraiato sul letto, le scritte si confondevano tutte insieme, un intrico di segni indecifrabili e confuso. Con le macchie di umidità, con le bolle dell'intonaco scrostato, con le crepe sul pavimento, con la luce forte che picchia negli occhi, mi giro sul fianco, con la faccia verso il muro, e davanti agli occhi ci sono le macchie marroni, quegli schizzi e quelle virgole, sull'intonaco giallastro e umido. E non ho più dubbi adesso, su cosa sono, di cosa sono tutte quelle macchie. Quel colore adesso so cos'è, quelle macchie marroni schizzate dappertutto sui muri della cella. Libri ribelli. Libri ribelli.